si alza un attimo così, però ho capito che si alzava per ascoltare. Infatti ha fatto due passi, si è fermato, lui non si è accorto, oh, ma dai, andiamo a fumarci una sigaretta. Vola cavallo vai, nelle praterie tu già lo sai, come fanno gli avvoltoi sulle carcasse di noi. Siamo zimbelli di mezzo mondo, ma siamo i più potenti. È perché tu parli al contrario che non ci dà il potere. Il potere più odia, più ti fa arroganti e ti schiacciano, manco fossi uno zimbello. Qua chi fa il pivello muore là, capito? Non si va più da nessuna parte. Questa è la nave che ci porterà lontani, se rimane qua tipo dei misteri. Siamo eroi dell'altro mondo, siamo veri. Siamo come le carte della mano che si leggono, si fanno, si riparano le linee. Leggo le mie mani come fossi un cazzo di veggente, onniveggente. Ci vedo su sta linea, la linea del destino. Rimane a guardare fino a com'è, dove va il cammino. Siamo delle persone che fanno, fanno mondo visione con Slim Shady. Rimango qui tra gli scleri di un gruppo di miei eroi che fanno miti e fanno loro del sempre boy. Siamo Kenshiro, siamo la torna cannone, siamo di De Gregori l'opinione. Siamo come il cammino che si fa a rap god, siamo come la mina che schiaccia questa cazzo di cucina. Siamo come la pressione quando sale, la gravità quando schiaccia, quando fa male. Quindi smetti di pressarci, facciamo quel cazzo che vogliamo, se tu non puoi capirci. You don't know me, understand me. Siamo come dei friend, friendly, friendship. Chiamaci come cazzo vuoi, fratelli. Siamo dei boss, siamo anche dei bravi ragazzi. Fai come cazzo ti pare, chiamaci come vuoi, ma non rompere il cazzo a noi, non rompere il cazzo a noi. Se no veniamo di lì, ti faccio un freestyle che ti lascio lì. Mi basta un paio di borbucche e un paio di crocche, ti faccio saltare l'aria tipo tre spotti. Cazzo, la tua stanza diventa qualcosa di orrendo, ma rock and roll. Siamo come la droga quando la fa Bruce Springsteen in naso. Siamo come un volo raso su questa traccia, un caccia di macchia. Minaccia tutti con una freccia, minaccia tutti come una freccia, minaccia tutti come una freccia. Il genio di Leonardo, questa è dedicata a te, Ricky. Grande, grande, dedicata a Ricky, bello.